E come avrete potuto intuire da questo pezzaccio con cui abbiamo iniziato, non so se l'avete intuito, ma se non l'avete intuito ve lo dico io, la puntata di oggi è una puntata elogio della cover, dove mi pregerò di raccontarvi il perché e il per come, secondo me, le cover sono sopravvalutate, scusate. Lapsus freudiano, sottovalutate e disprezzate e non gli viene riconosciuto il giusto merito che invece dovrebbero avere. Non sempre, chiaramente, anche perché purtroppo in effetti questa diffidenza, diciamo, nei confronti di chi fa cover nel mondo della musica è giustificata, lo ammetto. In primo luogo da quelle che secondo me sono un po' un'aberrazione, ovvero i gruppi cover. E i gruppi cover che infestano tantissimo la Toscana. Molto prima, devo dire, negli anni 90 andava a bestia questa cosa. Adesso un pochino di meno, mi pare. Però, ecco, effettivamente questa cosa capisco che possa creare del disagio e possa far sì che poi il fare cover venga considerata una cosa orribile e aberrante, ma non si deve fare di tutta erba un fascio e spero di dimostrarvi stasera che ci sono degli ottimi modi per fare cover e che in realtà per fare, diciamo, per reinterpretare un pezzo non originale, non fatto da noi, ma fatto da qualcun altro, ci va, insomma, per farlo bene ci va un bel po' di creatività e di savoir-faire, ecco. Perché, insomma, di fatto se si reinterpreta un brano che è a noi caro, gli si fa un tributo, sì, ma ci si mette anche del nostro, gli si aggiunge qualcosa. Almeno così dovrebbe essere, non sempre poi lo è. Intanto, prima di cominciare, prima che me ne dimentichi, vi do i nostri contatti subito così, foglio e penna come ai vecchi tempi, segnatevi tutto, il sito wombat.noblogs.org, dove tra le altre cose, a parte sentire lo streaming della diretta, che vi incitiamo sempre a sentire perché sennò ci sentiamo deficienti se ci ascoltate solo in podcast e mai in diretta, ma oltre a sentire la diretta potete anche consultare il nostro sito per appunto ascoltare tutti i podcast, aggiornarvi sugli sviluppi, su quelli dove, cioè, le puntate che non vi eravate perso. E poi potete guardare un po' le novità, gli eventi che facciamo, ogni tanto facciamo qualche serata di autofinanziamento, insomma, potete un pochino mettervi in regola, ecco. E quindi vi invitiamo a frequentarlo spesso. Poi la pagina Twitter, dove anche lì pubblichiamo quanto più riusciamo aggiornamenti su le puntate via via che le facciamo, twitter.com/radiowombatfi. La stupida pagina Facebook, se vi ostinate a usarla, facebook.com radio-wombat-firenze, e l'importantissima casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui scriverci tutti i vostri commenti. Vi ricordo anch'io, come stanno facendo un po' tutti, che c'è un fantastico Toto Morto 2017 lanciato da Fuoco alle Polveri, che vi invita a partecipare con la vostra terna di nomi famosi che saranno i prossimi da rimpiangere. E poi soprattutto ci dovete scrivere i vostri commenti e mandarci la vostra proposta di logo per la nostra radio. Tutte le modalità sono sempre sul sito e insomma, ormai dovreste sapere tutte queste cose, ma io ve le ripeto perché non si sa mai. Andiamo avanti con la nostra scaletta, iniziamola in realtà, visto che il primo pezzo, quello che avete sentito in apertura, era I Will Survive, l'avrete riconosciuto, ma in una versione un po' meno famosa dell'originale, ecco, degli Snuff, direi che comunque, insomma, abbastanza una cover ben riuscita, almeno a me piace molto. Il prossimo pezzo, in realtà, invece, è sempre un po' su questo tenore, un po' caciarone, e è dei Melt Banana. Melt Banana che vi ho fatto già sentire qualche puntata fa riguardo alla fantascienza, perché avevano fatto un pezzo che si intitolava Loop Nebula, se non mi sbaglio, ma adesso in realtà li risentiamo sulle cover, perché i Melt Banana hanno fatto un sacco di cover di tantissimi pezzi molto diversi tra loro. Ad esempio, non ve lo farò sentire oggi, vi risparmierò, ma c'è un veramente super noise pezzo di cover di White Christmas che vale la pena di ascoltare, ma ce ne sono veramente tantissime. Il loro approccio alle cover va di pari passo con il loro approccio alla musica in generale, insomma, non è che si diversifica. È un'esplosione, si potrebbe definire un'esplosione che sparpaglia rumori e boh, casino ovunque. Abbronzate tutte chiazze, belle rosse che un po' romanzate, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Tintarella di Luna l'avete riconosciuta originariamente di Mina, rifatta dai Melt Banana. Tra l'altro notavo che sono particolarmente bravi anche nella dizione dell'italiano, che insomma per dei giapponesi non è proprio una banalità, è difficile per gli americani, figuriamoci per i giapponesi. Anche se in realtà i fonemi tra italiano e giapponese e gli accenti non sono poi tanto diversi, quindi in realtà forse è più facile per dei giapponesi, tant'è che la lirica gli riesce assai meglio. Ma non divaghiamo, sennò poi finisce che faccio la fuga del gatto e mi confondo. No, continuiamo a Slick Chick, continuiamo con la nostra scaletta di reinterpretazione di pezzi, di cover, quindi, come vengono dette, e proseguiamo con Amanda Palmer. Anche lei ve l'ho già fatta sentire prima, ma ve l'ha ribeccata anche stasera. Ci sono due modi, secondo me, per affrontare una cover, andando per sottrazione oppure per aggiunta. Amanda Palmer, nei prossimi due pezzi, perché ve ne farò sentire uno dopo l'altro, due, offre un buon esempio dell'uno e dell'altro modo. Nel primo, primo pezzo che vi faccio sentire, che è una cover dei Radiohead, riesce a fare un piccolo capolavoro, secondo me, con la sua sola voce e un ukulele. In quello dopo, il pezzo seguente, invece prende uno stranoto e, boh, secondo me, imperfezionabile pezzo come Space Oddity di David Bowie e gli regala un'orchestra, come se ogni arco volesse a modo suo omaggiare qualcosa che difficilmente si può rendere più bello di come già era. Pezzo contenuto, fra l'altro, in un disco tributo fatto veramente pochi giorni dopo la morte di Bowie l'anno scorso. E Amanda Palmer è un'altra che gioca molto con l'interpretazione dei pezzi altrui e lo fa in modo piuttosto ironico, ma anche affettuoso, E in qualche modo secondo me è romantico quasi, è un po' alla vecchia. E sono generalmente tutti bellissimi i pezzi che lei rifà, anche se io vi consiglio particolarmente quelli fatti con i Dresden Dolls, quindi il suo gruppo precedente, nella dimensione del live in particolare, anche perché secondo me Amanda Palmer e i Dresden Dolls, entrambi, cioè sia nella sua formazione solista che con i Dresden Dolls, non si può soltanto ascoltare, ma si devono anche vedere per apprezzarli veramente fino in fondo. E quindi ora vi sentite entrambi i pezzi, prima Amanda Palmer solista con No Surprises, e The Radiohead, e secondo Amanda Palmer e Jarek Bischoff con Space Oddity. Thank you. 6 commencing countdown engines 4 3 2 check ignition 1 and may God's love be with you. Lift off. Want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. Ci sarebbero diverse altre cose che vi potrei raccontare a proposito di questi due pezzi che abbiamo appena sentito. Ad esempio, una cosa che mi ero dimenticata di dirvi è che in questa versione di Space Oddity avrete sentito il conto alla rovescia dal Ground Control all'inizio, che in questo caso è letto da Neil Gaiman, marito di Amanda Palmer, quindi gli è stato facile chiedergli questo contributo, penso. E invece in realtà nell'altro pezzo, No Surprises, la cosa veramente bella, al di là del pezzo musicale, che secondo me è molto bellino, ma è il video, perché Amanda Palmer ha rifatto esattamente No Surprises. Non so se ve lo ricordate, il video originale dei Radiohead è il faccione di Thom Yorke dentro una boccia di vetro con l'acqua, boccia per pesci. Almeno io l'ho sempre pensato che fosse una boccia per pesci, non so se poi era la boccia di un palombaro o cosa, però insomma, con l'acqua che gli saliva piano piano alla gola e lo affogava, con lui che piano piano entrava in apnea e continuava a cantare sott'acqua. Un video che a me è sempre piaciuto un sacco, l'ho trovato sempre nella sua semplicità piuttosto ben riuscito. E Amanda Palmer ha fatto esattamente lo stesso video, ma identico, però con un'animazione. Quindi c'è lei a cartone animato, esattamente, che fa le stesse cose, però momento per momento, con battito di ciglia dopo battito di ciglia, esattamente come Thom Yorke nei suoi video. Ed è piuttosto bello, insomma, da vedere. Lo potete trovare un po' ovunque. Perché altra cosa molto bella di Amanda Palmer e dei Dresden Dolls è che rilasciano la musica praticamente ovunque, e quindi la potete ritrovare e scaricare gratuitamente, molto facilmente. Ma andiamo avanti e arriviamo a un personaggione, non so davvero, non mi so bene capacitare, non so come mai ancora non avevo passato nessun pezzo di Daniel Johnston. Per fortuna ci ha già pensato Fuoco alle Polveri, quindi se avete già sentito la loro trasmissione avete già familiarizzato con quella sua vocetta stridula e dissonante. Per capire appieno di cosa stiamo parlando, se non avete mai sentito parlare di Daniel Johnston, devo darvi per forza qualche elemento biografico, perché altrimenti non riuscirete forse a entrare veramente dentro il prossimo pezzo che vi faccio sentire. Partiamo dal sito ufficiale di Daniel Johnston, che è www.ihowareyou.com, che tradotto in italiano è ciaocomestai.com, un omonimo titolo di un suo album, peraltro, e già basterebbe questo a darci degli indizi sulla persona. Daniel Johnston nasce da una famiglia cristiana metodista americana, della profonda America, o degli profondi Stati Uniti, e da ragazzino adora due cose: Capitan America e i Beatles. In un'intervista racconta che voleva disperatamente diventare i Beatles, tutti i Beatles, e ci rimase male quando si accorse che era completamente stonato e non riusciva proprio a cantare. Ma non si perse d'animo e decise di cantare lo stesso. Inizia a registrare canzoni su canzoni, ma a un ritmo esagerato, con un mangianastri, il vecchio mangianastri, da 59 dollari, per la precisione. Poi prende queste cassette e le dà in giro agli amici. Quella è la sua più grande e meravigliosa produzione. Ovviamente è introvabile, perché è solo su cassetta, ma potete comunque trovare in realtà riversata in digitale da qualche anima buona. I pezzi parlano con voce di bimbo, lo sentirete, delle cose che gli capitano, ma non solo la voce da bambino, anche il modo in cui ne parla è come se un bambino di 8 anni vi stesse raccontando la sua giornata brutta. Le cose che gli capitano, le cose che lo feriscono, soprattutto quelle che le feriscono, devo dire. Il primo disco racconta, ad esempio, della sua amata Lori, che lo pianta per sposarsi con un imprenditore, un ricco imprenditore della sua città. Daniel Johnston viene diagnosticato schizofrenico e bipolare, subisce moltissimi crolli nervosi, lunghi, dolorosi, subisce anche diversi arresti e ovviamente diversi ricoveri. Questo è Daniel Johnston, che insomma si può intuire anche soltanto ascoltandolo, che suona ancora, vive con i genitori, a casa con i genitori, anzi, i genitori credo che la madre sia morta, quindi soltanto con il padre, e ha come manager il suo padre, appunto, ottantenne. Ma in realtà niente che vi posso raccontare spiega veramente chi è Daniel Johnston. Dovete soltanto ascoltare la sua musica per intuirlo. lo amerete o lo odierete. In realtà non credo che esistano delle vie di mezzo possibili. Io ovviamente lo amo e quindi ve lo faccio sentire. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's right on down Lonely Street called Heartbreak Hotel. I get so lonely. I get so lonely. I get so lonely. I could die. I get this tingling feeling from my head down to my toes. I don't know exactly what it is, like my blood don't get around too well. I get so lonely. I get so lonely. I get so lonely. I could die. Apartment for broken hearts sincere. It's got a broken mirror to stare into and a bucket to drip tears. I get so lonely. I get so lonely. I get so lonely. Perché finisce così, lo so, è spezzato a merda, ma d'altra parte Daniel Johnston le cose le faceva così, le fa tuttora così, anche se in realtà è più famoso e ha avuto dei contratti, peraltro, insomma, finiti un po' così perché aveva un contrattone con l'Atlantic, se non sbaglio, e interrotto perché era stato ricoverato e poi cioè, è rimasto ricoverato per 7 anni. Insomma, e anche il suo bello, e quindi dobbiamo prenderlo com'è, con queste registrazioni sgranate e stoppate malamente, e tant'è. Questa era una, non ve l'ho detto, ma era, penso l'avete riconosciuta, l'interpretazione di Daniel Johnston di Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Quindi, insomma, penso che sia l'unica cover, cioè almeno io che ho trovato, è l'unica cover che Daniel Johnston perlomeno ha registrato, anche se dal vivo pare che ne abbia fatte diverse altre. Io ci terrei un sacco a vederlo dal vivo, ma purtroppo non credo che esca dagli Stati Uniti. Ma proseguiamo, proseguiamo con un altro pezzo di un personaggio questa volta un po' meno psicolabile forse, ma altrettanto interessante e talentuoso, che è Papa M. Papa M è uno dei vari pseudonimi di David Pajo, o Paco, non so come si dice, perché la J credo che lui sia di origine spagnola, ma non ho idea di come si legge. Chitarrista... ottimo, direi, chitarrista in un sacco di gruppi, forse il più famoso, gli Slint. Tra le varie cose c'è un album uscito nel 2009 di cover acustiche dei Misfits, e questo è quello, ovviamente, tratto da questo pezzo, tratto da questo album, ed è Hybrid Moments, lo riconoscerete, spero. Last. When you breathe, you make your bed. Niente facile reinterpretare questo pezzo di Joy Division, non so se ci avete mai provato, ma io sì, e vi dico che secondo me è veramente difficile, e i Radioactive Kids ci sono riusciti molto bene secondo me. Il pezzo era, l'avete riconosciuto, Love Will Tear Us Apart di appunto dei Joy Division. E vi anticipo che parlando di cover e di interpretazione di pezzi originali, potrei veramente andare avanti per ore e ne avrei 2000 di pezzi da farvi sentire, quindi ho già messo in conto, e mettetelo in conto anche voi, che non sarà l'unica puntata di Slick Chick dedicata a questo tema, quindi la puntata di oggi è molto soft, devo dire, a parte gli inizi. Proseguirà poi, non la prossima settimana, ma più in là nei prossimi mesi, con altrettante cover, perché già soltanto ora che ho finito di buttare giù la scaletta me ne sono venute in mente già 40.000 e ho pensato, ma perché non ho messo i Fichissimi, ad esempio, e tanti altri. Quindi, insomma, sappiate che ne riparleremo, avremo a riparlarne, ecco. Ma andiamo avanti con... Vabbè, un grandissimo classico, la regina delle cover, forse mi verrebbe da dire, Heart di Johnny Cash, o meglio la reinterpretazione di Johnny Cash di un classicone dei Nine Inch Nails. L'album è American for The Man Comes Around del 2002. L'avrete già sentita mille volte, penso, questa versione, ma non potevo rinunciarci. L'originale, appunto, dicevamo, è di Nine Inch Nails, come saprete, del 1994, eppure loro hanno dovuto ammettere che sì, in effetti la cover di Johnny Cash la supera di brutto. Il video è l'ultimo video che Cash ha girato prima di morire, e come David Bowie, tra l'altro, il testamento che ci lascia è, secondo me, tremendo e bellissimo. Un Johnny Cash vecchio e malato, seduto nella sua casa natale di Nashville, trasformata in museo, in quello che doveva diventare un museo, e poi lasciata in stato d'abbandono. Tutta la canzone, così come il video, celebrano i fasti di una vita pregiata in qualche modo, che però non tornerà, e questa è una sicurezza che si ha per tutto il video. Judy Carter, che compare teneramente anche lei nel video, muore 3 mesi dopo aver girato questo video. Johnny Cash dopo 7 mesi, e la casa crolla 4 anni dopo. E questa è la tristissima ma bellissima Hurt di Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Ecco, se non vi siete tagliati le vene, possiamo continuare con la nostra allegrissima scaletta di stasera. D'altronde c'è una luna piena bellissima, non so se l'avete vista, e questo ci induce alla malinconia. Allora, veniamo a un altro caposaldo della musica, almeno secondo me. Vi ho già confessato che Mike Patton potrebbe cantare qualsiasi cosa, io lo ascolterei per ore in ogni caso. Era una confessione che già vi avevo fatto qualche puntata fa. Un esempio lampante, oltre a tutta la faticosa musica sperimentale dove il suo diaframma fa cose che credevo fossero impossibili per un essere umano, è questo disco di qualche anno fa, in cui Mike Patton si cimenta con la musica italiana degli anni 50-60. Il progetto si chiama Mondocane, vi sarà capitato di ascoltarlo, credo. Ad accompagnarlo, oltre a Roy Paci alla tromba, tra l'altro un brevissimo Roy Paci, devo dire, c'è la filarmonica Arturo Toscanini di ben 65 elementi. I brani reinterpretati sono quelli di Gino Paoli, Buscaglione, Frank Bongusto, Morricone, Roberto Murolo, Nico Fidenco, Gianni Morandi, Vianello, Gigliola Cinquetti, pensate, Modugno, Celentano, eccetera, eccetera. Io in realtà volevo scandalizzarvi con un pezzo molto più sdolcinato, ma ahimè non lo trovavo in una qualità decente, perché Mondocane esiste in un album uscito nel 2010, appunto con la filarmonica Arturo Toscanini, ma poi ha proseguito un tour durato qualche anno in realtà, in giro per il mondo, molto in Italia ma anche fuori dall'Italia, e in realtà l'album sono pochi pezzi, ma durante i live venivano eseguiti molti più pezzi, e però questi non si trovano registrati, quindi si trovano solo in versione live un po' orribile su YouTube. Potete comunque andarveli a vedere, anche perché insomma vale sempre la pena. Quindi

effetti non so se l'avete riconosciuta, perché era abbastanza riconoscibile la versione dei Fantomas. Twin Peaks, Firework With Me. E, piccola digressione sugli appuntamenti di agenda, in agenda, nell'agenda fiorentina, negli spazi liberati di questa settimana che va più o meno da giovedì 12 gennaio a domenica 15, perché la settimana per me inizia di mercoledì, visto che Slick Chick va in onda il mercoledì. Quindi da domani, giovedì 12 gennaio, Polveriera, in Polveriera alle 18.30, seconda lezione del corso di disegno, corso di disegno iniziato la settimana scorsa. Se vi lo foste perso e vorreste mettervi in pari, potete andare domani alle 18.30 in Polveriera per la seconda lezione. Venerdì 13, sempre in Polveriera, un pomeriggio di autocostruzioni. Invece a Next Emerson, serata reg dub con una DJ set sound system di Joker Smoker. Sabato 14 gennaio, cantiere di Campi Bisenzio, banda K100 più banda popolare dell'Emilia Rossa e il tutto benefit per le condanne antifa. Invece domenica, l'ultimo appuntamento della settimana, al presidio No Inch, il presidio contro gli inceneritori, a via dello Smannoro a Sesto Fiorentino, dalle ore 11, piantiamo alberi, non grandi opere nocive e inutili, contro l'inceneritore e contro l'allargamento della pista dell'aeroporto. L'evento Facebook recita: porta il tuo albero di Natale al presidio, piantiamolo insieme nel parco della piana costruito dagli abitanti, l'unica grande opera utile. Per gli aggiornamenti sul programma completo, che ancora non ci sono e insomma sono un po' in via di definizione, vi rimando al sito pianacontronocività.noblogs.org, dove potrete informarvi meglio sia sull'assemblea della piana contro le nocività e tutto il movimento contro gli inceneritori e le nocività della piana, e anche gli appuntamenti e le prossime cose a cui non potete mancare. Proseguiamo però adesso, visto che gli appuntamenti, ahimè, sono pochini ancora, del resto fa un gran freddo e quindi si sta bene anche a casa al calduccio, ma quei pochi vale la pena comunque di andarseli a vedere. Quindi proseguiamo con la nostra scaletta musicale e dai Fantomas di Mike Patton approdiamo ai Portishead. Che dire, questa è una cover degli ABBA. Pensate un po', e i Portishead ne fanno una loro versione stupenda, secondo me. E vi consiglio anche di andare a vedere il video, che è molto semplice, ma veramente impressionante. Questa stessa versione la troviamo, fra l'altro, anche nelle musiche di High Rise, che è un film dell'anno scorso tratto dal romanzo di Ballard, Condominium. Penso di avervelo già citato, forse nella famosa puntata sulla fantascienza di cui parlavo anche prima. Non mi ricordo se ve l'ho consigliato, se non l'avevo fatto, ve lo consiglio adesso, caldamente. Quindi i Portishead, SOS, è originariamente degli ABBA. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? The love you gave me, nothing else can save me, S.O.S. When you're gone, how can I even try to go on? SOS The Portishead, passiamo a Siouxsie and the Banshees, un album in particolare che, da cui è tratto il pezzo che vi vado a far sentire, è Through the Looking Glass del 1987. È un album di cover, per l'appunto, piuttosto ardite, devo dire, dove si aggirano tra i generi, omaggiando le origini, almeno le origini loro, ma non solo loro, con il glam dei Roxy Music, di Iggy Pop, degli Sparks, ma anche dei Kraftwerk, Bob Dylan, The Doors, John Cale, The Television e Billie Holiday. C'è una bellissima versione di Strange Fruit di Billie Holiday. Quella che scelgo però stasera è la loro interpretazione di Trust in Me, che è un brano tratto, incredibile ma vero, dalla colonna sonora del Libro della Giungla di Disney, dove, non so se ve lo ricordate, io ho fatto uno sforzo mnemonico non indifferente, perché devo dire che non riguardo tutti i giorni questo film, ma c'è il serpente gigante, un boa, non so che cos'è, che un coso enorme, che cerca di convincere Mowgli a fidarsi di lui e farsi schiacciare a morte. E devo dire che la voce di Siouxsie in questo frangente è perfetta. Will cease to resist. just relax. Six and the Banshees con Trust in Me, una strana e gotica cover di un pezzo di Disney, Frisney. Un momento egotico, un po' autocelebrativo, celebrativo, non riesco neanche a dirlo, egotico, che ho evitato finora, ma che adesso effettivamente ci sta e quindi lo devo fare, devo cedere, per cui metto da parte il senso del pudore e via. Il prossimo pezzo infatti è dei Karakuri, ovvero un duo voce e contrabbasso di cui mi fregio di fare parte. C'è chi lavora per sottrazione, dicevamo, e chi per addizione, e ecco, Karakuri sottrae fino a scarnificare la musica che ama, lasciandone solo l'essenziale. Almeno, questo è quello a cui lavoriamo e che speriamo vi piaccia. E l'ultimo pezzo è questo qui, in realtà, perché è una scaletta alla fine abbastanza breve e corta. Con questo pezzo un po' appunto egotico vi lascio e ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre intorno alle 9, per un'oretta e un quarto, / un'oretta e mezzo di Slick Chick, sempre su Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. A presto, mercoledì prossimo, ciao ciao! Door, and my head on bits, no way. Echoes run around inside.